vita, no, non è uno scherzo, ma la sua ironia. Io sorridevo per mestiere, ma era una bugia. E più che una famiglia, io volevo l'anarchia. Ma adesso asciugo tutti con la tua fotografia. Avevo perduto fiducia nel mondo, senza nemmeno rendermene conto. Il lavoro andava a gonfie vele, la casa una barca che andava giù a fondo. Sai che la mamma aspettava un bambino, ma dopo l'ha perso. Io paralizzato come un brutto sogno, mentre lei piangeva e cadeva in ginocchio. E in quel momento mi si è rotto qualche cosa dentro. Per la prima volta mi sono sentito vecchio. Vittima di una fattura, una stregoneria. Tu hai rotto il sortilegio perché sei una magia. E ti porterò lontano con la forza di un missile. E ti prenderò per mano. Ti porterò a giocare su un prato. E il telefono l'ho buttato. E ho buttato tutte le pare. Per fortuna somiglia a tua madre. Per fortuna sei tutto tua madre. Quando è che ci fate un figlio? Tutti la stessa domanda. Io trattenevo la rabbia perché avrei voluto spaccargli la faccia. Avevo perso da mo' la speranza. Non sopportavo più tutto quel dramma. Ad avere coraggio ci pensava mamma. Tra medicine e le punture in pancia. Ha messo le corde anche io. Pensavo alla religione. Se un figlio è un dono di Dio, forse questa era la mia punizione. Ma quelli che mi amano con il biglietto per il mio spettacolo, chissà se immaginano che hanno pagato le cure, i dottori che hanno realizzato un miracolo. Ora so che dietro il caos c'è un senso più profondo. Sei nato a febbraio, lo stesso giorno del nonno. Mamma incredula temeva che fosse un miraggio. E i primi mesi ti ha tenuto giorno e notte in braccio. E ti porterò lontano con la forza di un missile. E ti prenderò per mano. Ti porterò a giocare su un prato. E il telefono l'ho buttato. E ho buttato tutte le pare. Per fortuna somiglia a tua madre. Per fortuna sei tutto tua madre. Da mamma hai preso il nasino, la forma degli occhi e del viso. E l'abilità di cambiarmi l'umore soltanto facendo un sorriso. Quando non dormi mai fino al mattino, quando fai casino rido perché la testa dura e la voglia di urlare. Quelle le hai prese da me, le hai prese da me. E ti porterò lontano con la forza di un missile.